da torme legite mi fa venire questo. Adesso attacca un altro baracchino, si crea che mi frega a me. Ma se l'hanno fatto in tutto il gomolo. Sì, sì. Vogliamo l'apporto.